lovely, and time can do so much. Sposi, la bellissima voce di Giuseppe Montagnani. Fantastico pubblico, fantastici gli sposi e i loro invitati.